come sei bella quando esci dall'acqua con la bocca di sale. Ti guardo negli occhi, non ci sono altri posti dove voglio camminare. Io te lo prometto, sarà tutto diverso, sarò sempre lo stesso. Un po' te ne accorgi quando sono contento, ma si to dica paragato non mi sienta. Si non vede che male tempo, quando fai geloso fuori male tempo. Si non ti sente male tempo, quando non dovrei. Quando non ti chiesti a like that, piglia tutto il tempo un po' che fretta. Non farò gioco, rimanimo in coppolietta. Tutto in posizione, ho fatto fa una foto. Tu sto pa' ma cominciamo una sua foto. Se ci fatto cose, senza ci ricere. No, tu sa ci ricere, no. Si non te vega male tempo, quando fai geloso fuori male tempo. Si non te sente male tempo, quando non te vega fuori male tempo. Male, male, male, male tempo. Male, male, male, male, male. Tiempo. Si non ti sente male tempo, quando non dovevo fare male tempo.